della vita, ma cosa c'è qui, Christian? Chi è? Buonasera, con chi ho l'onore di parlare? Io non sono l'onore di parlare, la voce la conosco però. Ah, Edo Piurru. Chi è costui? Chi è? Luca, ti devo dare una notizia. Babba, a te la si è rotta. Ma cosa? È barra in doccia sul baru, bisogna drizzarla. Perché sei fatto storto? No, è stato tirato male, capito? Vuole tirato di più da sulla parte destra di dietro, perché risulta un po' di lato verso sinistra. Ehi, quando verrà Claudio un attimo, si smolla, si tira, già, ehi. Non è questo il problema. Abbiamo pescato l'antenna anche un bel in fretta, dai, in fretta. Abbiamo fatto un bel lavoro, però c'è qualcosa molte volte ti scappa. Non è venuto Claudio a prendersi l'antenna? No. Non so, da sopra sembrava dritta lui, ma se la guardi da giù è barritura. C'è una ragione, che ha scritto che si vede che è una Jägermeister. È colta, è embriaca. Comunque quello là è Cristian. È vero. Vabbè già, cosa vuoi ti dica? Tanto dovrà venire Claudio a prendersi l'antenna e glielo fai fare, dai. Poi nel caso se c'è bisogno, ma non penso che c'è bisogno che venga anch'io. Bisogna essere in due, uno giù, uno che guarda quando è dritta da giù e l'altro tira. Vabbè dai, già mi arrangerò, dai. Cava cava. Cristian, da dove moduli? Ma chi sei? Fratello di Antonio? E Cristian vi dice un bene, non vi dice nessuno. E allora, da dove stai modulando? Dalla punto a punto. Ti sento un bel frusciato però, frusciato ti sento. Babbo! Dai, adesso vedo se trovo la direzione giusta. Vabbè Gianni. Ehi. Dai, io sto chiudendo che sto uscendo. Oggi è venerdì, ti tocca uscire. Devo andare alla cinesi un attimo, devo prendere due batterie e poi salgo su a casa al monte, dai. Ci sentiamo già. Andiamo a mangiare una pizza stasera. A domani già, ciao. E fai bene, ciao. Magari la prossima organizziamo qualche cosa. E non c'è problema, dai, tranquillo. Adesso no, fregatene. Andà Bex, ciao bello bene. Ciao, ciao. Avanti, avanti io, Cristian. Ciao, Cristian. Cristian, ripetati il palazzo. Esci tutto a frusci, no? Perché non ti metti la vettura? Non si capisce nulla. Dai, ti saluto, non ti sento. Ciao, Cristian. Bubu. Bubu. Antonello. Siamo a Bacchisio? Mi sento anch'io, vedi? Tu non esci per nulla e neanche lei si accende. E chi è? Attento, marino. Dimmi. Sì, accendi la 27. Che? Okay. Il barbiere solo, dai, passa il 27. Ma sia barbiere, Giovanni? È il PMR, rettore, che ti sta chiamando. Ma io non sento sulla 27. Sono sulle 23, sono. Ti sento che non accendi, adesso ti chiama, aspetta, vai tu. Lo sento, io poco anzi ero sul 10, ho salutato e non sono sul 10. E lui, io qua non sento per nulla, non c'è nulla sul 23. Ah, Sari, ma la 27 non ce l'hai? Qua controlla che non ti sente lui. Oh, signor Marino, catta, guarda che sei fuori frequenza, mi. Sì, che ti ascolto, Bacchi. Se sa che sei basso, sì. Aspetta un attimino, forse sei basso, sì, per quello non ti ascoltano. Bacchi, sei basso comunque, anche a me arrivi basso. Bacchi! Sei basso, Bacchi, sei basso e anche di segnale sei basso. E guarda che non c'ha più il capo un mezzo interrotto, Attenzione, Bacchisio! Attenzione, gigante, gigante, cambio! E sta sistemando, là, ok. Sempre sta toccato, Bacchisio, cazzo! Non lo lascia mai fermo! Mettile la cera, Bacchì, e non toccarlo più! Sì, signor Bacchì, dimmi! Sì, un po' garede ha aumentato! Io ti sento, gli altri non lo so se ti sentono. Ah, lo sento, io lo sento adesso. Ciao Bacchi, buonasera. Io non lo sento, manco si muove il segnale. Adesso ti sentiamo bene, vediamo un po' se ti sente Marino. Marino! No, nulla, Giovanni, non lo sento. 0-0. Non ti sento Bacchi, no, Marino. Aspetta, Giovanni, che cambia antenna, vediamo se lo sento con l'altra antenna, dai. Bacchi! Stai uscendo anche a scariche, stai uscendo, Secondo come lo muovi, esce a scariche. Stai uscendo a scariche, allora non ti ho compreso da cosa hai detto. Giammarì, non lo so, se metti a posto il PL è meglio. Infatti, stavo uscendo bene due entrate che ha fatto e adesso è tornato a calare. Deve essere il PL che gli dà, non gli dà massa. Ho cambiato antenna adesso, vuole questo l'ascolto. Provo a trovare da chi? Oh, nulla, manco neanche un coso che si accende qua, 0.0. No, a me arriva basso adesso, poco fa era più forte, ma adesso arriva basso e no. Ma chi sei basso prova a vedere a entrare in coso, in 27 va. Vieni in 27 che è meglio, va. A manco ti intendimmo.